Incontrata a Napoli, bella dagli occhioni blu, e t'ho promesso a Napoli di non lasciarti più. Ti dissi partirò domani, ma ritornerò perché il cuore mio seppur lontano per sempre l'hai legato a te. A Napoli, paese di canti e fior, oh mia Angelina, ti porterò il mio cuor, ti sposeremo a Napoli, quando il mondo pace avrà. Perché la mia felicità io l'ho incontrata a Napoli. Felicità, io l'ho incontrata a Napoli.